Giovani talenti. Giovani talenti di Sergio Nava. L'Italia è uno dei pochi paesi al mondo dove forse vige una mammocrazia. Giovani fino all'età di 30-33 anni vivono sotto il governo della mamma. Beh, aiutaci a dire basta. Aiutaci a dire goodbye, mamma. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Oggi abbiamo scelto di aprire la nostra trasmissione con un po' di ironia. È vero, parliamo sempre di giovani che lasciano questo paese, ma restiamo anche un paese di mammoni, come denuncia il progetto multimediale Goodbye Mamma, del quale vi parleremo tra poco, che invita tutti a fare la valigia e andarsene. Viviamo insomma su un crinale che sfiora il paradosso. Da una parte c'è chi segue l'indole del paese di poeti, santi e soprattutto navigatori, spinto da una situazione di pesante declino, sfociato questa settimana nella drammaticità più totale, e dall'altro chi invece continua a godersi il torpore dell'Italia del passato, preferendo la comoda vita sotto casa. Domanda a bruciapelo: chi è destinato a diventare secondo voi classe dirigente in futuro? Guarderà a loro l'Italia per superare questa gravissima crisi? Per ora purtroppo continuiamo solo a ricevere lettere di chi se ne vuole andare o di chi offre impiego all'estero. Allarme rosso. In Francia c'è la convinzione che il giovane che esce dall'università non è un peso morto per l'azienda, ma dei valori. In Italia non c'è questa convinzione, quindi scappiamo. Mario Neri, 28 anni, è un ingegnere delle telecomunicazioni, al lavoro a Londra per il colosso Inmarsat. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Ora spazio a notiziari. Nuovi drammatici dati sui giovani provenienti da Banca Italia. Il numero di under 30 che non sono né occupati né impiegati in corsi formativi, i cosiddetti NEET, ha raggiunto lo scorso anno i 2,2 milioni, il 23,4% del totale. Il dato è in crescita. L'aumento è stato più marcato al nord e al centro, meno nel mezzogiorno, dove si concentrano però oltre la metà dei NEET. Tra gli under 35 la quota di NEET tra i laureati resta alta, 20,5%, l'incidenza tra le donne supera il 26%. Continuiamo a parlare di giovani professionisti a cavallo tra Italia ed estero. Tra le laureate italiane oltre le Alpi, più del 52% ha conseguito un voto pari a 110 lode, una percentuale superiore a quella delle colleghe residenti in Italia, 43%. Solo il 24% delle laureate all'estero ritiene che nel bel paese venga rispettata la parità nelle retribuzioni. Lo rivela il secondo rapporto Bachelor, che sarà presentato mercoledì. Lancia intanto l'allarme il demografo Alessandro Rosina. Sulla base di dati OCSE, l'Italia supera solo Ungheria e Turchia nel rapporto tra inattivi e occupati. Siamo al 110,5%, oltre 30 punti sopra la media. Così, i due terzi degli italiani sono convinti che chi oggi studia o inizia a confrontarsi col mondo del lavoro avrà una posizione sociale ed economica peggiore rispetto alla generazione precedente. Il 41% ritiene che andare all'estero sia l'unica opportunità per i giovani laureati. Lo rivela l'indagine Demopolis per Famiglia Cristiana. E torniamo a parlare della legge contro esodo per il rientro dei talenti varata a fine dicembre. L'ideatore, il deputato PD Guglielmo Vaccaro, ha presentato un'interpellanza urgente al Ministero dell'Economia accompagnata dalle firme di 30 parlamentari. Sentiamo perché. Ci riferiamo alla situazione di chi è rientrato poco prima dell'approvazione della legge, pur in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa, e che oggi si vede in una situazione di incertezza, a godere magari di benefici fiscali, ma a temere anche di poter ricevere negli anni a venire una richiesta di rimborso. Qual è la data di scrimine? La problematica si pone per tutti coloro che sono rientrati prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della normativa. Giovani rientrati tra il 20 gennaio 2009 e il 29 gennaio del 2011. Le giovani start-up italiane cercano finanziamenti tramite venture capital nel 69% dei casi, lo rivela una ricerca presentata alla Mindbridge Competition. Il giovane start-upper è mediamente uomo, 32enne, del centro nord Italia, laureato o con master. Nell'85% dei casi opera nel settore web o ICT, uno su tre ha lavorato all'estero, il 9% delle start-up ha deciso di costituirsi oltre le Alpi a causa della carenza di attrattività da parte del bel paese. Ed è in programma venerdì 18 novembre a Pesaro Little Italy Big Italians, sesto forum dei giovani imprenditori di Confindustria. Si parlerà molto di fuga dei talenti. Federico Ferrini, presidente dei giovani imprenditori di Pesaro Urbino. L'Italia oggi soffre di questa grave emorragia di talenti che anche i giornali esteri come l'Economist hanno fotografato e definito come brain drain. Il punto è che non è possibile accusare soltanto istituzioni e una certa cultura paese di questo, ma dobbiamo anche guardare dentro noi stessi, guardare dentro le nostre aziende e metterci in gioco. Quindi vogliamo sostanzialmente capire che cosa rende poco attrattiva magari le nostre aziende agli occhi di giovani manager internazionali, capire che cosa manca nel nostro paese per diventare appetibili nei confronti di potenziali investitori esteri e anche capire che cosa spinge un giovane talento a non rientrare più nelle nostre aziende.

annunciato a luglio e soprattutto perché lo avete annunciato? Lo abbiamo anche concordato con le nostre organizzazioni sindacali, lo abbiamo fatto perché abbiamo fatto un intervento progettuale di trasparenza, di sostenibilità. Abbiamo fatto un accordo che prevede tre pezzi. Il dottorato di ricerca è uno strumento con cui noi offriamo alla ricerca scientifica italiana, 15 università con le quali abbiamo fatto altrettante convenzioni, pagando noi, la possibilità di far esercitare 65 dottorandi sul nostro campo di lavoro. Noi conveniamo con le università di che cosa si tratti, ciò detto però siamo noi a pagare i dottorati di ricerca per queste 65 persone. Quanti giovani ingegneri poi prevedete di assumere all'interno di questo progetto? Soprattutto quanti prevedete di stabilizzare? Queste sono 95 risorse per i dottorati di ricerca, okay, che in teoria vorrebbero essere avviate alla carriera universitaria. Noi siamo qua e se dimostrano interesse siamo pronti, come dire, alla fine ad acquisirle anche tutte. Salari, prospettive? Tutti e tre i pezzi dell'intervento, cioè sia i dottorati che i 200 alti apprendistati destinati a laureandi che i 65 master comportano per l'azienda un investimento intanto di 7,5 milioni. Le prospettive salariali sono assolutamente quelle dei quadri che puntano alla carriera direttiva, quindi noi abbiamo dei percorsi predefiniti che tradizionalmente abbiamo sempre impiegato. Mario, se tu fossi un giovane universitario saresti attratto da questa opportunità? Sicuramente sarebbe un'ottima opportunità. Mi porrei qualche domanda se, per esempio, non volessi fare il dottorato di ricerca. Guardi, sono tre finalità diverse. Noi col dottorato di ricerca ci rivolgiamo a talenti che sostanzialmente passano la griglia delle università e speriamo che costituiscano delle speranze per l'innovazione tecnologica. Quello di 200 alto apprendisti laureandi a Milano o Roma su tecnologie ultra broadband con accordo di alto apprendistato si rivolge invece a persone che intendono accorciare il loro tempo di inserimento nel mercato del lavoro. È evidente che il target in questo caso è diverso. Mario, avevi una domanda per il dottor Migliardi? Secondo lei le aziende in Italia stanno lavorando per evitare che i giovani talenti se ne vadano e costituiscano un esodo? Noi oggi cerchiamo quantità piccole di professionalità con altissima capacità di intervento, quindi cerchiamo i migliori, come dire, no? Perché siamo un'azienda matura, perché le telecomunicazioni in Italia sono mature, è passata la fase dell'esplosione in cui mettevamo grandi quantità di giovani ingegneri. Probabilmente oggi in Brasile e in Argentina le telecomunicazioni sono in una fase di questo tipo. In questo settore la possibilità di occupazione si è redistribuita su base mondo, le competenze internazionali servono altro che, in altri settori nascenti è probabile invece che il meccanismo sia invertito. Grazie ad Antonio Migliardi. Domanda di rito a Mario Neri per chiudere: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio? Consiglierei al giovane di farla un'esperienza all'estero, soprattutto quando si è intorno ai 25 anni d'età. Per tornare siamo sempre a tempo. E siamo giunti allo spazio dedicato alle associazioni e alle iniziative che si occupano di quella che possiamo definire come la nuova emigrazione. Oggi ci concentriamo su un progetto editoriale multimediale del quale vi abbiamo fornito un'anticipazione in apertura di programma, Goodbye Mamma. Giulio Sovran è ideatore del progetto che conta su un team di 20 collaboratori. Goodbye Mamma è un progetto di un libro, un progetto editoriale nato 2 anni e mezzo fa con l'idea di aiutare gli italiani a lasciare l'Italia e partire, andare a vivere all'estero. Tra poche settimane sarà in libreria questo libro, cosa si potrà leggere? Si potrà leggere un metodo, quindi si potrà scoprire come effettivamente lasciare l'Italia durante le varie fasi della vita, quindi noi andiamo a prendere dalla gioventù, dai 15 anni fino ai pensionati e gli spieghiamo come muoversi e cosa fare. E il libro è però già stato preceduto da un sito online da diverse settimane dove si trovano anche dei video virali. Cosa possiamo scovare su questo sito? Allora, il sito è in realtà un supporto al libro, perché il libro è più un metodo, un aiuto generale che insegna delle linee guida, mentre il sito sono proprio delle informazioni pratiche che aggiorniamo quotidianamente e che possono aiutare gli italiani a trovare delle offerte specifiche nel loro settore. Dicevamo appunto, ci sono dei video virali anche abbastanza divertenti, no? Sì, i video virali li abbiamo creati proprio per lanciare questa tematica e diciamo ci aiutano a divertire un po' tutto il nostro pubblico, il network creato su Facebook tramite il nostro gruppo e la nostra pagina. La vostra è un po' una provocazione, il giovane mammone, ma questo mammone italiano è più vittima o carnefice di se stesso? Eh,